un po' cassana, dai, per questi piccoli imprevisti. Tutto lì. Poi stavo aspettando anche a Tonino, da Usini, che un po' di giorni fa, diciamo, mi ha indirizzato a prendere dell'acqua, dico, buona, da una fontana, o sì. Stavo scarseggiando, dunque sono andato a Usini a rifornirmi di acqua da bere. Per dire che avevo trovato la fontana già, è abbastanza buona come acqua. E via, tu ho chiamato un paio di volte, no, non ho risposto, direttamente è già chiuso, senza entrare, ma domenica mattina non sta. L'ho sentito ieri sera un paio di volte al telefono, perché eravamo lì a Usini a un matrimonio e per cui ci siamo sentiti al telefono, capito? Oggi non l'ho sentito, ma si farà sentire senz'altro. Allora io avevo sentito i contratti, avevo fatto una chiacchieratina e per cui ogni tanto ci vuole l'altro, ogni tanto ci vuole. E beh, e tu? Sei stato anche assente anche alla frequenza, come mai? No, assente no, sono rimasto tra una cosa e l'altra, un mese e mezzo, due. Poi, visto che un po' la situazione si è calmata, c'erano delle situazioni, Gianmarì, che andavano evitate per non stare lì a litigare più di tanto. Dunque sì, tenevo acceso, non si abbandona l'apparato, tenevo acceso e ascoltavo. Però ho fatto, diciamo, un po' di bianco, proprio per evitare un po' di disguidi, ecco, tutto lì. Solamente per evitare, perché non ne vale la pena e basta, e poi quando sento delle persone giuste, dove non si litiga e si fanno dei discorsi, dai, seri o così anche stupidaggini, ma senza litigare va bene, e dunque passi tranquillamente la serata all'apparato, tutto lì, solamente per evitare. Ma infatti, conviene fare così, infatti, a bisticciare, no, vale la pena, perché tanto sappiamo già che la 27 è così, non è che puoi trovare tutti in un modo, capito? Purtroppo ci sono sempre le cose buone, le persone, diciamo, un po' amorose, capito? Per cui quando si può evitare, meglio, perché non ne vale la pena. Hai fatto bene, e bisogna fare così. Ma bisticciare frequenza, ma va tutto, e così faccio io, se una persona non mi garba, la entro, ma non bisticcio io, capito? Per cui invito ad entrarci e quando ci sono magari 6 persone e tira a campana. Io ormai adesso le cose, per cui non è che sia. La 27 è stata sempre così, anzi adesso ti dico che è più calma adesso, ma prima era peggio, c'era un azzuffatorio che non finiva più, parecchi sono andati anche alle mani, ma non ne vale la pena, come tu hai detto, non ne vale la pena, per cui evitare, se puoi evitare meglio. Va bene, tanto sappiamo così, se vogliamo. E c'è qualche altra cosa di buono o meglio, così. Boh, com'è questa radio? No, la radio va benissimo, Gianmarì, tu sinceramente sei uscito sempre bene, senza problemi, no? Ormai non c'è più quegli assilli di me, di dare la perfezione. No, vai benissimo. Santiago 9, la parte mia è Radio 5, è bella, pulita, pulita. Così c'è il microfono originale o amplificato. Io in questo momento sto modulando col 68, il Midra 68S, col suo microfono originale. Pulito, pulito. No, tu vai più che bene. Ok. È un microfono a tavole, però non è amplificato molto, capito? Non è amplificato molto, per cui dovrebbe andare benissimo. Sono già una cinquantina di centimetri lontano dal microfono. E questo è l'apparecchio, non l'accendevo, così che ogni tanto bisogna accenderli, se no partono. Infatti ne ho uno che l'apparecchio non l'accendo e si è bloccato e oggi o domani lo riparo, sono sempre così, mi già da 4-5 mesi è ancora così. Chissà questa settimana riesca a decidermi e spedirlo e poi lo metto a posto almeno anche a tenerli senza che non funzioni non mi piace a me, mi piace avere sempre l'apparecchio sempre in perfette condizioni. Anche se non accende magari non ci parli, però è meglio avere sempre funzionante, ecco. Sì, quello sì, pienamente d'accordo. Diciamo non è abbastanza grave, diciamo, come danno, dai. È risolvibile, niente di preoccupante, ecco. E non proprio tanto dispendioso se ha questo problema. No, non è preoccupante, è una cazzata, ma non si trova il pezzo qua. A Sassari non si trova, nemmeno a Cagliari, capito? Su ci sono, però non te ne mandano, perché costano una cazzata, capito? E per un pezzo del genere non te lo mandano, se lo, magari se lo si dice su, te lo riparano, però mandarti il pezzo non te lo mandano. Capito? Allora è preferibile mandarlo su e metterlo a posto e c'è a monte. Magari ci sarà qualche altra cosetta da farli controllare, però e la cosa più importante era perché non c'è la ricezione, capito? Non c'è la ricezione, tutto il resto funziona, uscire esce, però non c'è la ricezione. Ed è un diodo della M che non ho, un diodo rivelatore che della M che no, che è bruciato, capito? Ah ecco, ma diciamo volendo, giustamente si comporta anche le spese di spedizione, tra una cosa e l'altra, andate e ritorno, alla fine spendi più in quello che non il pezzo, ma non è possibile per dire fare una ricerca su internet, ordinartelo e poi portarlo a qualcuno bravo e te lo sostituisce, si potrebbe anche fare così, o sbaglio? Io l'ho trovato questo diodo. Non in Italia, ma l'ho trovato in America addirittura. Sì, però abbiamo scritto un'email, dice che ce lo mandavano, già 4-5 mesi non è mai arrivato questo dio, mai, non è arrivato mai. Non so perché, forse perché la spesa, ma ne ho tirato 3 o 4, capito? Però non li hanno mandati nemmeno. Ma non so perché non li hanno mandati, io avrei fatto un altro email, ma non mi hanno risposto, allora ho mollato tutto. Adesso faccio così, lo spedisco direttamente in continente e me lo metto a posto, capito? Oh, che lo potrei anche lasciare così, perché tanto ho 3 o 4 queste baracchine, però ripeto, non mi piace averlo se non funziona, non mi piace, ecco, devo tenerlo sempre in perfette condizioni. Allora ho deciso di spedirlo e basta. Allora io niente, non ho provato, ma forse non ho trovato il negozio adatto e non me l'hanno mandato nemmeno, capito? Per cui ci sono equivalenti, se non trovi l'originale ci sono anche equivalenti, però non so perché non lo mandano, capito? Forse perché la spesa è minima e allora te la mandano per quello, capito? Ora sì, diciamo tra virgolette non ci dovrebbe avere il guadagno, ecco, ma strano che volendo, per dire, Fusaro, facendogli un ordine, perché loro hanno, durante l'arco dei mesi hanno degli ordini, dunque cosa fanno loro? Funziona così, mi ha spiegato, quando arrivano una certa quantità di materiale che devono spedire, risparmiano nelle spedizioni, più c'è materiale, tutto il materiale che le serve in un'unica spedizione, per singoli pezzi ci perdono di più, giustamente c'è più dispendio di denaro, dunque si sarebbe potuto, se avrebbero voluto ordinarlo da Fusaro e farlo arrivare, ma dandoti una garanzia, ecco, adesso abbiamo un carico, ci mettiamo anche quello in mezzo, tra un mese, tra 2 mesi arriva al 100%, ecco, volendo si potrebbe fare anche così. Sono andato io, me lo potrebbe anche dire anche loro questo particolare, cioè non ha guardato sul come si chiama, dove sono tutti i tipi di Dio, dice no, non ce l'abbiamo, non possiamo, cos'è l'altro, gira, li ho mollati e me ne sono andato anche alla GBC, magari è più facile andare da un tecnico e dire così così, perché loro c'era la maggior parte dei tecnici che aggiustano, riparano i televisori eccetera, e si fanno mandare tutti questi pezzi da fuori anche, perché magari qua non li trovano. Potrebbe essere un'era così più facile, capito? Ma hanno solo andato a trovare le persone che dovevo trovare, causa delle questo mi era successo, avevo mollato tutto. Adesso vediamo un po' là, sono indeciso, ma più di sì a spedirlo che a darlo qua a qualcuno magari, perché ci sono un paio di cose che devo far mettere a posto, magari qua se non c'hanno il macchinario là ce non vanno bene, capito? Quello sono pienamente d'accordo, guarda, io la vetra mi sono trovato non bene, benissimo, veramente bene, quando ho portato a allineare leggermente il Galaxy, che a cambiargli un pezzo che si era bruciato per colpa del microfono amplificato, mettevo troppo amplificato e si era bruciato questo pezzo, ma l'ha riparato tranquillamente, pezzo originale, se l'ho fatto ordinare, cioè è arrivato tutto quanto. L'ho portato da Videolab, penso che lo sai dov'è, lì all'entrata di Sassari. E io mi sono trovato benissimo. No, puoi spiegare lì la situazione, vedi un po', ma penso che tu risolva tranquillamente il problema. Poi con la scusa ti fai un giro a piedi, che ti fa anche bene camminare, e con la scusa esci, ecco, e chiedi un po' anche a lui. Non credo che dovrebbe avere problemi per un semplice diodo. Sicuramente contatti ne ha, è il suo lavoro, solo lo può ordinare e sistemare l'apparato e dare anche una controllata, ecco, una lineata e via. Io da quando l'ho portato lì il gas sta sempre funzionando bene, perfetto. Poi gli ho mai messo ormai le mani addosso, così me l'ha dato, così sta funzionando, sono contentissimo, guarda. Perfetto, pulito e onesto. Puoi provare e valuti un po' anche tu la situazione, ecco. Giovanni, buongiorno, anche a te, buona domenica. Però non è che mi sia preoccupato più di tanto, capito? Perché magari sulle condizioni che era, magari ero mollato tutto, chi aveva buio, non stavo pensando nemmeno a... E per quello magari ci ho pensato di contattare anche a lui, ma non mi sono preoccupato di tanto, ma adesso mi sono un po' preoccupando, e trovassi mi sei gira, ve lo riparo, diciamo, tutto lì. Ok, avanti, buongiorno, buona domenica, anche a te, vai. Ciao Giovanni, buongiorno, buona domenica, anche all'amico Vecellino, ho capito chi è. Ok, altro Barracuda, Rossi, che te lo mando avanti, avanti, a me. Via, buongiorno, Barracuda, modulazioni Rossi. Ciao Barracuda, buongiorno. Sono entrato lì a chiedere un piccolo rapporto di segnale lì alla vostra zona, ma sta arrivando, cambio. Da parte mia 6, 9, quasi più 10, ci manca pochissimo, è una bella radio di 5, Aussi. Ok, grazie. Giovanni, da te come sto arrivando? E sto provando una radio qua, volevo sapere come stavo andando. È 9.40, sì, è 9.40. Lo sai come può arrivare da me, 9.40. Già, va bene, dai, ok, dai, c'è il contraccambio della porta, Giovanni, 9.40, anche tu stai arrivando, la radio ultima, ok. Vabbè, no, stavo provando giusto questa radio a vedere come stava andando, tutto qua. Ogni tanto bisogna accendere a vedere questa radio, se no si rovinano. Ok, Barracuda, vai a te, il tuo rapporto 5.9 qua, Ti ringrazio, scusami, non ho capito il tuo nominativo, chi sei e dove stai modulando, da Sassari, sì? Da una modulazione, Monte Rosello Alto, zona di Sassari, California era questa. Buongiorno California, sì, no, arrivi più che bene, poi siamo abbastanza vicini in linea d'aria, sono zona Litterae, non so se c'è presente, oh sì, zona Litterae, zona alta, dunque vedo Sassari dintorni. Dunque arrivi più che bene dalle mie parti. Anche tu stai andando bene, Barracuda. 5-9 sempre, 5-9, 5-9 più 5 stai arrivando. Comunque arrivi bene. La radio buona, è tutto qua. Comunque la radio è buona questa, sì. Sì, da parte mia ti ascolto benissimo. Benissimo, ma non stai usando un microfono originale, no? Sicuramente è qualcosa di amplificato, correggimi se sbaglio. Adesso sto utilizzando un microfono riflettono perché si sentono, va benissimo, l'amplificazione è giusta, è perfettamente lineare, no, va più che bene da parte mia. Capo, dai, riprende Giovanni. Ok, ma quell'ora non ci sei passato, ma senz'altro non ci saranno, senz'altro, quello come un pedalasso, per carità, non ci sono ripassato, no? No, l'ho visto l'altro giorno, Giovanni, e gliel'ho detto di quella cosa lì, ma ha detto che praticamente non è arrivato niente. Secondo me quello lì è un pupazzo. Sì, perché non si è visto che è un pupazzo veramente. Ma quando mai una persona deve arrivare a questo punto? Non costava niente a dire, guarda, no, mi interessa, non c'ho tempo, arrangiatevi, e sarebbe risolto tutto. E io ho perso tanto di quello tempo andando e tornando, chiedendo, sembrava che fosse anche un po' stufato, ecco, ma non mi costava, non mi costava niente a dire, non ho fatto niente, e almeno avrei evitato di stare andando e tornando, capito? Per me è veramente un pupazzo da mettere proprio sopra il bagno, ecco. Ascolta Giovanni, io forse quel Dio riesco, bisogna aprire una radio, forse c'è dentro una radio lì. Ci sono anche equivalenti, ci sono, io perché ripeto non è che sappia maneggiare bene il computer, se no l'avrei trovato senza tirare così e là, ma infatti ieri quando è sabato ho telefonato e mi ha detto mandaglielo e direttamente glielo spedisco, a questo sarebbe arrivato, sarebbe stato anche fatto. Se tu, ma lasciamo perdere, vai. Ascolta a me, se tu mi dai quella sigla di quel diodo, io lo faccio ordinare da Pinuccio quel diodo, capito? Perché lui ordina sempre lì dall'America pezzi per il computer tutto quanto. No, lasciamo stare, siamo stare, lo spedisco e me lo faccio fare su perché ci sono altre cose da mettere a posto, per cui faccio uno e l'altro, capito? No, non mi fate la volta che lo scrivo, domani la scatola è pronta, c'è solo a fare a scrivere ciò che deve fare e spedirlo, capito? Non c'ho problemi, vabbè, se ne frega, pago quelli che devo pagare, ma almeno lì me lo fanno come si deve, senza tante cose, capito? Capa Giovanni, così, vabbè. Che ci vuoi fare? Lascia vedere qui, questa cosa, ragazzi, tu mi chiedi forse troppo alto. Comunque ti piace questa modulazione, Giovanni? Come? Ti piace quella modulazione questa? È troppo piena rimane, vabbè, forse perché siamo vicini magari, arriva bomba. Troppo forte, ecco, per me è troppo forte, magari Antonello potrebbe andare bene perché essendo più lontano la radio arriva più pulita, capito? Tutto lì. Ora mi chiedi qua ce l'ho praticamente al sotto del minimo, capito? Sempre un aumento, dopo c'è ancora aumentare o diminuire, però qua, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, così è a minimo, a medio, dai. Ma non è che ci sia stata variazione, quasi niente, però Antonio. No, sinceramente da parte mia è diventata un po' troppo prepotente, secondo me, nella mia parata in cui ciò mi dà questo... mi indica così, troppo prepotente, si può abbassare meglio. Ma adesso ce l'ho, praticamente ce l'ho a minimo, dai. Adesso va bene, da parte mia va benissimo, è molto più comprensibile. Per te, Giovanni, sicuramente è migliorata anche per te. Infatti, adesso è perfetta, adesso è più pulita, ecco, rimane più leggera, per cui la radio va benissimo adesso. È troppo forte, Questa radio c'aveva il coro sporco, ho dovuto smontare a pulirlo perché la polvere, sai, Gio Maria, appunto, la pulire lasciata fermo. I contatti cominciano a ossidarsi a fare. Aspetta che accendo l'altro, vediamo un po'. Un attimo, riprendi con Antonella. Vai, riprendi Antonella. E io. Quale fai, c'è ancora, scusa, che stiamo facendo controlli? Non ti differenza adesso dalla prima modulazione a questa? Dai un passaggio. Vedi un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso sto utilizzando l'MB più 4. Prima c'aveva il microfono originale. Questa la radio rimane un po' più per amplificata rispetto all'altra. Buona lo stesso anche questa. Ah, va benissimo, ma no, perché uso, diciamo, Bino, ho solamente un microfono amplificato, diciamo, tutti gli apparati che ho, vedo che già funziona abbastanza bene con tutti, dall'MB più 4. Perfetto, no, va benissimo così. E tu che apparato hai? Che apparato stai usando adesso? Che è abbastanza interessante quella modulazione. Io adesso sto utilizzando un K. E non ce l'ho presente. Utilizzando un 4140 della K, della Kingwood. Ah, basta, va. Ecco perché questa modulazione. Sì, KK. E vabbè, la modulazione si sente rispetto alla tua, In che senso? Beh, giustamente la tua è molto più rifinita, molto più incisiva. E sono diverse radio, capito? Dalla tua. Adesso guarda cosa. Stiamo mettendo a paragone un Midland, un Kingwood, dunque già c'è un bel abisso, KK, vediamo un po' se Gio Maria ha sistemato la questione. Ok. Vabbè, freddo, se lo scalda questo non funziona, Comunque dovrebbe andare abbastanza bene, penso io. Com'è adesso, Antonio? Dove sei più lontano? Adesso la parte mia di là, il modulatore rimane molto più chiara, l'altra è un pochino più incisiva, questa è molto molto più chiara, più pulita ti senti, una modulazione molto più pulita con fronte a prima. Sì, è bella anche questa, ma non è malvagia neanche l'altra. Ok, a testa! Ma io ti ascolto bene, Gio Maria. La radio è buona, il segnale lo stesso, ottima radio, buona, va bene. Perlomeno per il poco che l'accese funziona, così che credo così, dai. Ma va bene ugualmente, riprendi. E KK che va bene. Già va bene, Gio Maria, tutto ok. Ma cos'è il Galaxy? No, è il Cobra questo, è il Cobra 200, dai. Ah, ecco, ma ho già anche qui un bel apparato, Già ti difendi anche bene tu, Gio Maria. Che dove vedi sei tu quanto, questo smetto mi sembra che sia un po' agevola troppo, penso, però sei 9.20 qua, con questo. Oh, sempre uguale, sto uscendo esattamente con 4 watt modulati, portante fissa, sì, 3 watt, dai, modulati 4, pulito, pulito, pulito. Va benissimo, e poi a due passi siamo vicini, per cui la radio, sei in alto abbastanza, per cui arrivi benissimo, non ci sono problemi. Ok, riprende tra... Riprendo, stavo cercando uno spezzone, volevo fare una cosa, qua, non me lo trovo. Mi ha dato un casino per spezzone. Quando li cerchi non ne trovi neanche uno, ma mi do che cosa l'ho trovato, ma neanche, forse l'hai visto. Ah, ecco qua. Ogni tanto ne dai uno e ne c'è pure un altro, domani. Casino, cazzo qua. Beh, comunque te l'avevo detto tua moglie, ti ho chiamato l'altra volta, però non mi hai richiamato. Figli mimi, ragazzi, stava a cosa all'altro, ragazzi, già me l'hanno detto. Allora, già me l'hanno detto, ma stava a cosa all'altro e me ne sono un po' scordato, a dire la verità, È inutile che dire, mi sono dimenticato tutto lì, poi a fare il gas. Ma bacca mai il dolore, ma le luci, ma i dolori ci sono sempre, poco poco ci sono, però non sono dolori come prima, però sono cose da riuscire a sopportare benissimo, e per cui sa, me ne sono dimenticato, vabbè, tutto lì, ecco, non ho niente di male, ecco. Capo, infatti avevo chiamato, siccome ero sempre fuori, poi mi è successo questo, Giovanni, che ho perso anche, praticamente ci ho buttato il telefono dentro la lavatrice, perché avevo messo i pantaloni, avevo dimenticato il cellulare e ce l'ho buttato nella lavatrice, quindi l'ho dovuto buttare via. Ok, quando non si può, non si può. Ma se avessi un po' tutto, già ti anche sull'elenco, Gio Maria, non era problema, vabbè, non importa, dai. Comunque, ho visto che il tempo è passato, tutto si sta rimettendo a posto, e quello che mi interessava di più di tutto, che si mettevano a posto tutte le cose che c'erano fuori posto, tutto lì. La cosa più importante era qua, quello stavo pensando io. No, però ho visto che già gli amici mi hanno cercato, per cui anzi, dico questo, persone che non ho, che magari non mi hanno mai cercato, invece in quei momenti mi hanno veramente fatto piacere, per cui vedi, certe volte gli amici sembrano sia una maniera, invece sono tutto dall'altra parte in favore alle cose buone, capito? Tutto lì è quella molto importante, e io infatti ringrazio gli amici che mi hanno sempre cercato, per cui, o perché io non ho avuto mai niente con nessuno, è chiaro che hanno sentito la situazione com'era, mi hanno cercato, e sono venuti anche a trovarmi, e mi ha fatto veramente un gran piacere, che tu non hai idea, e in quelle condizioni sai benissimo cosa vuol dire avere un amico a fianco, ecco. Eh beh, certo, Giovanni, quello pure è vero, è vero. L'amicizia è la prima cosa principale, tutto qua. Va bene, io vi saluto perché devo uscire, ti saluto Gio Maria, buona domenica, buon tutto, saluto in casa anche da parte mia, saluto anche a Cosa, a Baracuda, giù a Usi, buona domenica, buon tutto, saluto anche gli amici che sono in ascolto, per me me ne passo in QRT, Gio Maria, lì mi ci sentiamo, dai, io ci telefoniamo, ci vediamo, ciao ciao ancora e buona domenica a tutti. Ciao, ci sentiamo alla buon proseguimento e ci sentiamo alle prossime. Ok, vai a tre. E io ti auguro un buon proseguimento di serata e ci sentiamo alle prossime, d'accordo? Ok, allora già sta andando bene, no? Questa più scalda, più bene va questa apparecchio, Un po' che fate mica, un po' che fate, sai? 4 e mezzo, 4 e 8, vai. Oh, quello già l'ho notato anch'io, e più sta andando avanti più ha migliorato la modulazione. Sì, è vero. E giustamente ha bisogno di dare una scaldatina per funzionare perfettamente. Che volevo dire, lì a Sassari piovendo sta, qui ha iniziato a piovere. Ai, che cos'è? Qua mi sembra di no. E se avrebbe piovuto avrebbe fatto veramente bene, bene, bene, bene. Chissà che riesca a piovere. Dove le fa molto, ma dove non le fa niente, adesso poteva dividere la cosa. Insomma, Salvatore fa divisore Biasa Edo. A quanto pare sì, ma secondo te fa bene per, diciamo, per la vigna adesso che tra un po' ci sarà la raccolta, forse giustamente già anche iniziata, dovrebbe fargli bene quest'acqua? Quelli che stanno pendeviando, non è giusto, non è propizio questa pioggia, però ma penso che adesso la maggior parte hanno tutti pendeviati, perché ormai poi in anticipo l'annata quest'anno, per cui dovrebbe essere, forse hanno vendemmiato tutti. Adesso l'acqua fa bene perché uno deve anche piantare, fare, e se non piove fai, capito, c'è un giardino di aranci, sto dicendo, ci sono gli alberi, sembrano che si stanno seccando tutte le foglie, proprio gialle, proprio tutte piegate, no. E se non piove non si ripiglia, e quest'anno aranci, ma a me è difficile che ne ammaturi, capite? E sono piccoli piccoli ancora, ti puoi mangiare per magari acqua, io non gli ho dato quest'anno in quanto non ho potuto farlo. Tutti gli anni li innaffiavo, invece quest'anno non ho potuto perché ancora la schiena non è che possa andare bene, non mi sono spostato, capito? Per cui l'acqua si dovrebbe fare, fa bene a tutto adesso, a tutto. Quello sì, chiaramente ragione, giustamente quando l'abbandono un po' ne risente, alla fine quello già è vero, ma comunque dovrei, non è neanche più alla fine di piovere, arrivato a un certo punto dovremmo iniziare da febbraio in poi, se non sbaglio, vero? Diciamo adesso in questo periodo non è annata di pioggia. Ma la pioggia dovrebbe esserci adesso, capito? Perché uno deve arare, deve seminare, capito? Nei periodi questo di arare tutto, di piantare eccetera eccetera, capito? Però se non piove la terra, il terreno è secco, secco completamente, per cui cosa fa? Non puoi fare niente, deve piovere, poter fare tutto, capito? No, vedrà lui cosa fare, dai. Vabbè, chi è credente, io dice speri nella fortuna, ecco, di come gira il tempo, tutto lì. Tu mi hai detto che c'hai un bel po' di alberi d'arancia, là, dunque c'è un bel terreno abbastanza sistemato, ecco, c'è un po' di tutto alla fine. Mai faccio. E parecchie piante ce ne sono, parecchie piante, capito? Per cui io, è tutto frutteto il mio, non è terreno vuoto, è tutto frutteto fatto, capito? Per cui c'è tutto, e ci sono anche gli aranci, capito? E per cui l'acqua ci voleva, ecco, ci voleva veramente. Non ho potuto fare niente sulle condizioni che sono, infatti se piove io, infatti ho parlato già con uno, viene e mi pulisce tutto e così via, capito? È tutto abbandonato adesso, poi c'è l'erba non finisce più, capito? Perché non ho toccato più io, che hai il tempo di pulire. E dopo una bella moto zappata è tutto a posto, ma lo farò senz'altro, piano piano, ogni cosa a suo tempo. Quello sì, ma alla fine diciamo dopo che diciamo che sei sanato diciamo perfettamente, riprendi di nuovo diciamo andare in campagna, sì, non dico di fare grandi cose, ma almeno un minimo continuare a farlo, l'hai proprio abbandonata del tutto. Fino adesso non posso fare, ancora per un mesetto non posso fare niente, capito? Perché mi hanno tolto il busto da poco, per cui per un mese devo stare nulla, non devo fare niente, sai cosa vuol dire niente? Nulla, capito? Però magari a guidare e guido, a uscire a camminare a piedi, sì, tranquillo, però senza fare sforzi, capito? Per un mesetto dopo vuol dire qualche cosetta la farò anch'io, non è che. Però adesso vede uno me la pulisce, capito? E quello sì, ma ripeto sempre con la scusa, se proprio non ti rimetti in sesto, se c'è ancora la voglia, piano piano puoi riniziare a rimuoverti e a sistemare la campagna, ecco che anche lì è una buona ginnastica quotidiana che fa bene, ecco, tutto lì. Approfittarne sempre se il fisico te lo permette, le forze, sempre per dare più riabilitazione al corpo, ecco, per ritornare diciamo operativo come il prima dell'infortunio. Non ho potuto fare niente, ancora non ho potuto fare niente, è tutto così, tutto come l'ho lasciato, la domenica sera è ancora, per cui non ho potuto fare niente, sì, ci sono sceso. Intanto scendiamo così e facciamo diamo una controllatina, ma non è che abbia fatto niente, perché aspetta, non posso fare niente, poi aspettando anche queste piogge per poter pulire bene e c'è ancora niente, dice che appena che piove è chiaro che è già avvisato quella persona, me lo fa, dopo magari piano piano qualche cosetta che posso fare lo faccio senza fare il corso, capito? perché lo tanto facile è quello che avevo io a uscirne fuori, ecco. Quello sì, ma qui sta tronando. Speriamo bene, speriamo bene. Speriamo bene. E si sente già. Qualche rumore si è sentito anche qua. Ah, c'è la parte che l'acqua fa bene adesso, ci vuole, che è tempo suo. Se no andiamo male, se non piove, che siamo senza acqua, e quel poco che c'è va persa, va i tubi rotti che ci abbiamo in sasse, che roba da 100 anni che non li hanno mai messi a posto. Però soltanto si legge nel giornale alcune riunioni di Sassari in condizioni critiche, senza acqua, e quel poco che arriva è imbevibile, non ti puoi neanche lavare fisicamente. Vedi un po' tu, ecco una cosa. Ed è così purtroppo, cioè in tutti i giornali, però alla fine fanno quei piccoli rattoppi, così chiudono la bocca un po' a tutti, si continuerà a disperdere l'acqua pagando, le condizioni sono sempre quelle, c'è un meteorismo generale, non andremo mai avanti così, no Gianmarì? Purtroppo così altro. Ma te mi hanno chiamato, dai, devo chiudere. Ci aspettiamo che è venuta gente. Ok, io ti ringrazio delle chiacchieratine che abbiamo fatto. Ben sentito dopo tanto, e forse se considera magari più tardi oppure stasera. Tanto re, buona domenica a te famiglia e buon proseguimento. Ciao. E a te canto Gianmarì, buon proseguimento di serata, appetito giustamente tra un po' e ora. Stammi bene, ci sentiamo le prossime, da buon proseguimento. Hola, attenzione, canale 5. Chi è? Buonasera, anzi, buongiorno. Ciao Antonio, ciao. Beh già, dove stai andando? Mi ha trovato mia sorella, sto andando. Come al solito la domenica, volevo sentire. Ah, questo è già in arrivo lì, sì. Ma ho copiato, Antonio, dimmi. Questo se stai per arrivare, ho detto. Ma sto partendo adesso, sto andando adesso, capito? Ma sta facendo le barriate da me, ma no, mamma mia, a goccioloni grossi, di quelli estinti. Fateci bene, aspetta, ecco, fate il tipo basso. E voi avete Gim a metà. Sì, è vero, ma si vede benissimo anche qua per il bando, un bel acquattone. Ma si vede che è passeggero comunque. Già fa bene lo stesso. Allora Luigi ti sei alzato tardi, dai. Antonio, sono andato a fare un giro moto con mio figlio. Si trattava per dottore e poi abbiamo fatto il tempo a compiere e si è messo a piovere. Abbiamo già passato una bella mattinata, è già bella in moto, ben coperta, anche se le temperature non sono alte, comunque. Già dello stesso farsi un giro in moto. No, io il giro l'ho acceso verso le 8:30, ho fatto un po' di chiamate, ma non si è sentito nessuno. E poi lì ho sentito Gio Maria sul 5, sono rimasto lì che è andato via, che c'ha ospiti in casa, tutto lì. Niente, ho fatto diverse chiamate, no, ancora non si è svegliato nessuno. No, io ho sentito Antonio a Falsetto, la mattina, mi ha detto che era vicino a un bar, sono andato a cercare, non ci siamo trovati. La sua Serra Secca? No, io arrivo, vicino a casa. Ah, vicino a casa tua, Ah, strano, sicuramente un altro canale, io ero sempre posizionato sul 5, è andato bene o male, verso quell'ora c'è Gio Maria e l'amico di Usini, che mi sfugge il nome adesso, è Antonio, per fare una chiacchierata con loro, ma ho beccato solo Gio Maria, tutto lì. Tonino Attila! E io Tonino Attila, sì, non Antonio, Tonino, sì, non dimentico sempre. Basta, sempre sul 5 e via, niente di particolare. Sta piovendo di notte, un goccione, proprio è barriata mala. Già è bello, dai, poi fortunatamente a quest'ora già c'è poco traffico, specialmente la domenica, perché quando piove guai, tutti hanno il panico, dunque potrei viaggiare tranquillamente adesso. Ti stavo dicendo, vabbè, ne avevo bisogno la macchina, perché ho fatto che quella pioggia arancione, l'avevo appena lavata, me l'ha tutta sporcata di arancione, quindi già ne avevo bisogno di essere lavata. Beh, guarda, se hai lavato l'autolavaggio, li potevi dare con la passata di cera, che poi la risciacqui tu solamente con acqua e ritorna pulita. Sì, sì, ce l'ho sempre la sera, li faccio prelavaggio, poi li faccio risciacquo e li do la sera, sempre ogni volta che li faccio io. Infatti, se ti rimane con la scorcizia così di fanghiglia, robe varie, polvere, mischiata con acqua, un'altra risciacquata senza nessun sapone ritorna pulita come prima. Comunque c'è una zona abbastanza negativa e ti sto perdendo. Dove ti trovi? Lo so, io sono in mezzo ai palazzi, Antonio, sono in mezzo ai palazzi. Sto uscendo con la schiuma che esce quando piove la prima volta. È quella più pericolosa, è abbastanza scivolosa e dunque anda via tranquillo, non fare accelerate brusche, frenate brusche e rispetta i semafori. Io sempre, sono sempre sotto con queste cose, geniali, mi chiedi se non stavo andando piano, avrei messo sotto un bambino, mi sarebbe costata, e anche se non è la colpa mia, perché è uscito da dietro un padre, seguendo un pallone, è stato fatto tempo in tempo a frenare. Cos'è, a piedi o in bicicletta o in moto? Cosa? A piedi, stava correndo presso il pallone. Ho visto il pallone scendo, cavolo, già cominciato a rallentare, poi come uscito lui l'ho frenato di colpo, perché me lo sono quasi immaginato, qualcuno me l'ha detto dal cielo. Qualche premonizione, l'altro sentivi che qualcosa doveva succedere, giusto così, anche a me capita più di una volta, se c'è una voce interna di chi ti dice, non lo so, gira a destra, oppure vai piano, non so, qualcosa del genere, capita anche a me, e la maggior parte delle volte non l'ascolto e sono successe scene allucinanti. Fatto è, guarda, ieri era tremarella, ragazzi, mi è uscito di colpo, cioè sai come fanno i bambini, ha preso il pallone, correndo, io ho visto il pallone andando, subito ho frenato, cazzo, se lo frenavo un po' prima l'avrei preso. Bisogna stare attenti, vabbè, anche qua in paese è lo stesso, basta un niente, neanche te l'immagine, puoi fare ogni giorno la stessa via, però può capitare sempre un imprevisto, bisogna andare sempre occhi aperti in macchina, non c'è niente da fare, poi c'è un sacco di trazione, il telefonino, la radio accesa, ti metti a canticchiare, e a volte capita, bisogna stare un bel attenti, no? Ma l'importante è che sia andato tutto bene, non essere sceso dalla macchina dalle due sculaccioni, no? No, non mi spaventato anche, poi c'è la signora, ha detto, se non stai attento giocando qualche minuto, meno male che il signore è stato pronto dei riflessi, forse stato qualcuno che si fosse impappucciato, l'avrebbe preso in pieno, sto dicendo che ho dato una sterzata a destra e l'ha frenata, di modo che anche se lo prendevo di sbieto, ma tutto l'ho sfiorato. Vecchie! Allora. Ciao Gianni, ciao Antonello, sono entrato per salutarvi e vi saluto cuore tipo me. Ascolta la vostra risposta e ciccia. Ciao, avanti già. Ciao Giulio, grazie per la benedizione. Vabbè, sì, suppongo che sono andato a mangiare, dai, buona carica, buon tutto. Avanti, Antonello. Eia, ciao Giulio, buongiorno. L'appetito giustamente, se è quasi pronto, qui bisogna preparare. Ci sentiamo alle prossime se coincide. Presto, sono 11, cioè mezzo giorno non 10, non 12 minuti, ma non 13 minuti, ancora è presto. Qui si mangia intorno all'una e mezza, una cosa del genere. Insomma, dopo l'una, in poche parole. Va, mi faccio un giretto e ciccia, ci sentiamo. Ciao, riprendi, ciao a tutti e due. Ciao Giulio, grazie per essere entrato a salutare. Avanti, Antonello, di nuovo. Eia, ciao Giulio, alle prossime. E niente già, adesso io scendo giù in cortile, mi taglio qualche pianta di bietola, e ci mangiamo bietola e poi accompagnato da qualche altra cosa. Oggi vegetariano. Già fanno bene, a me piacciono anche le bietole, dico la verità, perché quando facevo dieta mangiavo quelle lì, insalata, talmente ne ho mangiato tante che ho preso tutta la bocca, mi piacciono veramente. Sì, già ci vuole, no, io direi che la faccio sì bollita, ma non troppo, e poi un piccolo soffritto con aglio, e sopra ci metti, sai, della mozzarella, del formaggio leggermente piccante, dai, per dare un pochettino di gusto, e a voglia il pane lo metto al forno anche il giorno del giorno prima, bello croccante, dei benini devastati, no, già è buono, già ci vuole ogni tanto, oppure lo fai a frittata, ce ne sono modi, là già ci vuole ogni tanto, fa bene. Poi fatta così, no, io la faccio proprio insalata, capito? La faccio insalata la verdura cotta. E lo so, c'è molta gente che la fa, tipo gli spinaci, così la fa, eh? E alla fine sì, no, adesso per gli spinaci ancora non li ho visto in giro, sicuramente inizia adesso il periodo, no, ci passano anche quelli, un po' caro ci sono, è bello che te ne prendi un chilo, poi quando vai a smollentarli ce n'è la metà della metà della metà, dunque devi prendere sempre ogni volta un chilo in più per saziarti. Sì, si riducono a nulla queste cose qua, anche le pietole così. Io quando fa la bietola ne faccio 4 pentoloni pieni e poi si riducono a nulla. Sì, ci vuole una certa quantità, ma il segreto è non cucinarli più di tanto, se poi devi ripassarli in una seconda cottura alla fine, ecco, devi dargli un pochettino più di gusto aggiungendoli, non so, della mozzarella, del formaggio, anche delle uova volendo, una media cottura gli devi dare. Se la lasci troppo non rimane niente, è vero, è vero. Solo i tronchi rimangono, la parte più dura. Poi vabbè, le pietole sono buone, specialmente con le selvatiche, a me mi piace a volte. E c'era un periodo quando facevo niente che mia moglie andava al mercatino a piazzare il segno a comprarle. Se io non ce la facevo andare a farle, me le comprava. E questo qua gli ha detto, ma che cosa c'ha? Qualche mucca in casa? Adesso tutte le pietole che compra, li comprava 5-6 vasi di voi. La maggior parte le mangiavi tu così, quella era ripetata la mucca. E allora io ero, mangiavo solo quelle però, capito, mangiavo bietole e avevo sceso un bel chili, bietole, frutta e No, già è buona, poi è sempre la solita carne, già bisogna anche variare giustamente. Anzi, se è possibile non mangiarne per niente, stavo leggendo un libro che ti spiega per quale motivo non mangiare carne, preferibilmente frutta e verdura, cereali o legumi, eliminando sì carne che derivati per avere un corpo abbastanza attivo e dura per quando inizia a invecchiare, dunque bisogna eliminare la carne, così dice questo libro che sto continuando a leggere e ti spiega i motivi, ma ti dico cose impressionanti, come parla per dire di allevamenti di polli che vengono dopo che vengono diciamo uccisi, buttati in acqua e varechina per non so per quale processo di disinfestazione, poi proprio acqua e varechina del cloro, poi vengono tolti e risciacquati, nella pelle viene iniettata un brodo al gusto di pollo per ridargli il gusto e poi viene messo in commercio tranquillamente a prezzi veramente stracciati, se noti è vero, a volte trovi due polli a 3 euro, 3,50 euro, tagli un pochettino ti fa pensare ma cosa diavolo ci stanno dando da mangiare. Dunque dal giorno, come ho detto a questa storia, pollo non è più toccato, guarda. Quando c'era mio padre vivo portava quelli ruspanti e mamma li faceva un brodo con il ripieno di carne, poi li ricucivano e li metteva a bollire. E quelli sì che erano saporiti, la carne è un po' duretta, dico la verità, era più buono il ripieno, ma erano saporiti. Sì, ma almeno sai cosa, era un po' dura ma sana, questa è morbidissima e poi del resto non si sa, è quello il discorso, come danno da mangiare, che vita conducono prima di trovarli nel piatto, e tutto c'è un processo allucinante, ma infatti lui c'è sempre di diffidare da questi prezzi super scontati, come fa uno, anche per esempio ho trovato alcune rosticcerie, dunque se vai a comprarlo ti viene un esempio 3 euro, vai a rosticceria e lo paghi 1 euro in più, 4 euro a cotto con la camicina, ma loro quanto lo pagano? La corrente tutto il tempo, che ci vuole per cucinarlo, tutto il procedimento. Dimmi tu se il guadagno non ce l'hanno, chissà loro a quanto li pagano questi animali, per dire. C'è sempre un punto di domanda, Il bello è trovare le persone veramente che allevano a terra, mangiano quello che trovano, giustamente, senza aggiunta di medicinali o diciamo mangimi modificati. Sarebbe bello, almeno ti mangi un pollo come si deve. Adesso secondo me è tutta mondetta e c'è poco da raggirare. Insomma, ormai la gente è abituata a mangiare subito in 448 senza stare lì a cercare, a fare ricerche, dunque col passare dell'età secondo me gli acciacchi sono dovuti anche dall'alimentazione, dallo schifo che mangiamo ogni giorno. Antonio, anche con i porcetti questa cosa la fanno, perché io mi ricordo che noi abbiamo le macellerie, quando andavo a far macellare i porcetti li portavo vivi, poi andavo a ritirarli morti, no? Li pungevano ancora vivi, li buttavano in questo balcone dove c'era l'acqua bollente, per tutto il coso, il sotto e la cosa che ci hanno attaccato. Li buttavano poi con un gancio, li ripescavano, capito? Una volta che erano puliti, li uscivano puliti, bianchi. Immaginati tu, no, che bella sofferenza. E poi c'è stato anche un dato scientifico che, diciamo, l'animale nel momento in cui sta morendo soffre, diciamo, questa sofferenza viene assorbita dalle cellule che sono intorno al corpo, no? E dopo tu te le mangi, secondo queste ricerche, hai degli effetti negativi sull'uomo introducendo carne, che durante la vita dopo la morte, diciamo, c'è stato questo processo, perché poi la paura provoca delle reazioni chimiche nelle cellule che rimangono nella carne, tu mangiandola ti collungando anche da problemi anche fisici. Questo a quanto pare dovrebbe essere scientificamente provato, dunque vedi un po', diciamo, c'è un più cose negative che positive nel mangiare la carne, ecco. Poi giustamente sono sempre punti di vista, ci sono degli argomenti da trattare con i guanti e pensarci bene. Ma ognuno ha la sua scelta alla fine, anche nell'alimentazione. Lo so, specialmente le carni rosse non sono molto indicate, non so qual è buona, la carne di struzzo che è magra, è una carne, ma sempre devono essere allevati come li allevava mio cognato gli dava le verdure, le foglie delle pietre, per dire, con la tipo scena, le prime foglie più vettugli della pietra, cosa, gli dava quelle lì da mangiare, pane duro, tutta questa roba qua, è gran turco, e le prendeva piccolini, li rivendeva grandi, capito, e li allevava così, però quella carne lì era saporita, perché una volta l'ha mangiata uno, c'era anche un pezzo, era veramente buona, ed è magra, non c'è un filo di grasso. Vedi, giustamente la levava in modo naturale, ecco, senza tutte le schifezze che ci mettono per diventare in pochissimo tempo giganti e super muscolosi e via, dai, alla fine al naturale, ci mette un po' più di tempo a crescere, ma chi se ne frega, a me non mangi qualcosa di come si deve, ecco, tutto lì. Cavolo, quanto correva, aveva fatto tipo un recinto così, no? Un recinto molto grande. E come ti vedeva con la roba da mangiare, correva la mina, ma tu dove vedevi qua, ti rubavano, e ti vedevano subito e tu ti rubavano la mano. Sì, adesso non ce l'ha più per questo allevamento, no? O l'ha mollato? Non lo so, non te lo so dire, però lui prendeva piccolini e poi prendeva pulcini e poi li allevava con le verdure, con le cose, sai, da noi scarta, per dire, le prime foglie, se c'è, per dire, una mela che ci ha appena toccata, cose, li tolgono il pezzo, capito, le lavava. Non lo so, c'era lui, ma poi dove c'era la riga lui, capito? Se aveva fatto questo lecce, mi pare che si è fatto la piscina lì, non penso che li abbia più. C'era un pezzo di terra e li aveva messi. Guarda, erano veramente belli e grandi, si facevano veramente grossi. Li prendeva piccolini, pulcini, non so, dove li prendeva e poi li allevava. Buono, me lo mangiare, ripeto, qualcosa come si deve. Qui sta letteralmente diluviando già. Impressionante. Ha smesso, Antonio, adesso. Ha smesso. Io sono fermo sotto, diciamo, l'istituto della voce nazionale, se no non dia fastidio alle apparecchiature. Sì, ci sta piovendo, aspetta che regolo una cosettina. Si intende già. Sì. Già sotto controllo. Appena un pochettino di stazionaria, ma siamo sempre quasi a 1,1, giustamente per la pioggia, no, è giusto sotto controllo. È una bella passata sta dando, sicuramente la salsa è arrivata direttamente a Ussi. Ma si vede che sono passeggere, dai. Pioggia estiva, tu pensa che ero con Marcolino, anzi io ti stavo chiamando perché volevo dirti se venivi con tua figlia e magari e me e Marco siamo andati in pizzeria ieri notte e siamo stati veramente bene, che sta lume di candela, ci hanno servito tutta la pizza, tutti di mare, veramente un bel servizio. Ci ho andato a mangiare la pizza, ho cercato di chiamarti ma sono riuscito a ritracciarti. Il telefonino era acceso, io c'ero un libro, grandinando, non è che sta piovendo, sta grandinando qua. No, qua erano gocce rosse. Un attimino già, arrivo subito. Già, Antonio, che salgo su adesso, che sennò non ce la faccio più a salire, non mi fanno salire, dai. Ti saluto, magari stasera, nel tanto c'è brutto tempo, non si può uscire, si può fare nulla, c'è la camera radio, dai, sul 10, ok? Io già allora lo lascio acceso sul canale 10, verso che ora? Io penso verso le 4 e mezza, così, l'ora di pranzo, dopo pranzo, 4 e mezza. Se quando mia moglie non si curica, perché tu con la sicurezza lì per non disturbarla lo spengo. Perfetto, non c'è problema, allora lo lascio acceso sul canale 10, d'accordissimo. Buon proseguimento, ci sentiamo più tardi, dai. Andare alle prossime, buon pranzo. Salutami anche tua figlia Tonzi. Ciao ciao. Io ti ringrazio già, è ricambiato. Siamo più tardi se coincide. Lo giro direttamente sul canale 10 e lo lascio acceso lì.